Qual è, secondo lei, il suono più piacevole? Tipico? Piacevole? Piacevole, piacevole che quando lei apre la finestra sente. Senti gli uccellini la mattina quando cantano, si svegliano, bello. È rilassante quello, è rilassante. E quello che non le piace? Beh, il frastuono delle macchine quando passano, autobus, camion. Però la società è questa, purtroppo. Come si vive a Lizzano? Bene, bene, bene. Io la mia compagna qua, in questa casa qua. Da quanto tempo? Sta? Oh, bella casa. È del 700, è il vecchio comune di Lizzano questo. E voi abitate qui da? Sì, sì, da io da 6 anni, da loro da 30 anni, 40 anni. È un suono proprio tipico dell'identità di questo posto qui, secondo lei, che sente un suoni o rumori che caratterizzano? Un suono che sente quasi sempre. Che è proprio qua? Il fruscio della gente al bar, che è bello, che è quello. La vita, insomma, alla fine, la vita sociale. Che è bello sentire gli spaccati della vita della gente, delle persone, tante volte. Grazie, bella cosa, il fruscio della gente al bar. Qualche altra domanda? Mi viene in mente qualche altra domanda? Simone, Andrea? Niente, ringraziamolo. Grazie. Buona giornata. Buona giornata.